please fasten your seatbelts. Don't forget your keys. 21.05 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza anche per oggi 9 maggio 2018, un nuovo appuntamento con prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa, poi il palinsesto prevede 25 o'clock. Contatto telefonico 06491750, sito internet già adesso particolarmente frequentato con lo streaming, che è www.ondarossa.info. Ondarossa@ondarossa.info è il nostro indirizzo di posta elettronica. E per quanto riguarda la possibilità anche di risentire il podcast e leggere la playlist, domani sul sito comparirà, come comparirà su queste pagine, sulla mia pagina personale e anche su prove tecniche di trasmissione /disorder. Un saluto ad Alessandra qui da Roma, Maya dall'Argentina, Carlos Silva da Mexico City, Govin Singh Kurana da Ferrara, Raffaele Pezzella, grande Raffaele da Napoli. Un saluto anche a Ugo qui da Roma. Dalla Sardegna Nicola Locci, un saluto anche a lui. E non poteva mancare anche Luciano FM, genovese, un musicista qui di Roma ormai, che gli piaccia o no un pezzo di storia, da molti anni suona anche lui, Enrico Cerrato dalla provincia di Asti. È tempo di iniziare, dunque lo facciamo dal nord Europa, dalla Svezia, con Rise on Detre di Peter Andersson, nome e cognome abbastanza canonico e scontato per uno svedese, ma tant'è. La cosa più importante è che anche Alchimeia, questo suo ultimo lavoro, è un ottimo lavoro, 4 tracce particolarmente suggestive, ovviamente per chi ama soprattutto il dark ambient a trazione gotica. Lunghe tracce che ci ascolteremo in gran parte, compresa questa seconda dal nome Albedo. Eccolo qua, Rise on Detre. Your engine is on. Le quattro fasi della trasmutazione alchemica. Alchimeia tratta di questo, dunque l'ultimo lavoro di Rise on Detre, e noi ci siamo ascoltati la seconda di queste trasmutazioni, dal nome Albedo. Una lunga suite dark ambient dal retrogusto, ma più che retrogusto direi anche attrazione gotica, riprendendo la tendenza, le sonorità iniziali di questo ottimo artista svedese. Che ha recuperato anche per l'appunto il suo lato più esoterico. Sempre molto intenso, come dice giustamente il buon Nicola Locci di Stigmate, altro progetto italiano, ulteriore dimostrazione della validità della nostra scena. Come Giovanni Leonardi, salutiamo anche lui, credo da Sassuolo se non ricordo male, che sentiremo più avanti, anche lui con Senketsu no Nightclub. Quasi un peccato interrompere questi cori così monastici, fondamentalmente dei canti, dei cori gregoriani, ma d'altronde ci siamo già ascoltati praticamente 13-14 minuti di questa traccia, e per cui andiamo oltre. Anche in Sol Invictus di Tony Wakeford, nel secondo CD che cominciamo a conoscere questa sera, opera una sorta di sperimentazione con delle parti vocali che in questo album dal nome Necropolis sono particolarmente ricercate e sottolineate. Allora, questo secondo CD si apre con Those Who Watch, The Last Choir e Nine Elms Watching. See them. We treat some Eccoci qua, dunque, mentre salutiamo 25 O'Clock, che ricordo andrà in onda tra circa un'oretta. Sta andando ancora Sol Invictus. Questo era Necropolis, era il secondo CD di Necropolis, che consiglio caldamente, o meglio, consiglio caldamente di reperire la edizione deluxe, appunto, che è composta da due CD, perché ci sono altre 17 tracce, 6-7 dal vivo, che forse però è la parte più debole, è partita adesso la sezione live, soprattutto perché è registrato veramente in maniera indecente, ammettiamolo. Le tracce invece di studio sono molto belle e privilegiano la parte vocale, come avete sentito. Una parte vocale è curata da Robin Selman. Salutiamo intanto anche Gabriel Edvi from London. Brevemente vorrei anche ricordare due iniziative che si terranno questo fine settimana, esattamente sabato, in sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Una al The Frag, diciamo un club, chiamiamolo così, che è in via delle Isole Curziolane. Al Tufello suoneranno gli Alma Irata, Pax Armata e Barbed Wire. Ingresso lì 5 euro, sabato 12 maggio, ore 21. Un'altra iniziativa invece, quella di prima si chiamava Roma Urla Alternative Festival, questo è il nome completo. Per quanto riguarda, diciamo, invece il Forte Prenestino, CCCCNCNCN, che è un progetto e collettivo industrial degli anni 80 e 90 che ci metterà in una performance dal nome Rafting Sonoro nelle correnti elettromagnetiche, con al centro il concetto di radio in tutti i sensi, anche quella veramente dedicata all'ascolto. Quindi sarà una performance interattiva con il pubblico presente, compreso anche una performance diciamo musicale. Dopo di ciò ci sarà una selezione, una DJ set a cura del sottoscritto, dunque DJ Elettrodo e DJ Mittegaisen, Scarf di Giardino Violetto, insieme poi a Noctibus Panis. Veniamo adesso alla consueta capatina nei paesi balcanici attraverso questa interessantissima compilation di Raffaele Pezzella, che risalutiamo. An Express Sounds, The Balkan Perspective 2018, Balkan Experimental Survey Post Industrial Culture Series. Se si va poi nel sito, nella pagina Bandcamp An Express Sounds Group, si possono trovare una miriade di compilation e opere invece di artisti più o meno sotterranei che il buon Pezzella ha assemblato in questo interessantissimo portale, che consiglio vivamente. Tornando nello specifico a questa compilation, cominciamo con l'ascoltarci Tal Siberian Saga, con una traccia dal nome Salgar, e poi subito di seguito Atuk and Zyazin con Relapse Mechanism. dall'afflato religioso e l'andamento mantrico, vero e proprio istinto di invito alla meditazione, questo Siberian Saga di Emre Uznur, progetto proveniente dalla Turchia a dispetto del nome. Un artista attivo anche come Nadam, ringraziamo chiaramente Raffaele di queste chiarificazioni. Un artista che a me ha colpito in particolar modo, e sarebbe bello rimediare altro materiale di questo Siberian Saga. Di ben tenore completamente diverso è questo Atuken Zianzim Relapse Mechanism. Sorta di psichedelia lisergica vera e propria per Atuk and Zianzin. C'è molto di Nars with Wound secondo me in questo Relapse Mechanism, un progetto molto molto interessante anche questo, estratto dunque da Nespress Sounds The Balkan Perspective, un viaggio sempre più intenso nei Balcani, così ricchi di cultura musicale. Un grazie dunque ancora a Raffaele Pezzella. Un'altra medaglia sul suo petto dunque da apporre. L'artista rumena, ecco, vengo a sapere, Andrei Barbu e Zianzin, entrambi dalla Romania. Grazie Raffaele. Prima proposta italiana per questa sera, proprio qui di Roma, si chiamano Holy Pieces, molto molto efficace questo duetto tra le macchine elettroniche di Marco Bonini e la viola di Ambra Chiara Michelangeli, se non sbaglio, non vorrei dire un sbagliare no, ma andrò a vedere meglio. Fatto sta che ci andiamo ad ascoltare da questo Un Set Pieces, questa terza traccia dal nome Mastaba, sempre da Holy Pieces. L'ottimo sodalizio dunque in questo Holy Pieces perpetrato da Marco Bonini, anche conosciuto come Ubik, alle macchine e il violino di Ambra Chiara Michelangeli. Hanno dato alla luce questo Used Pieces, quattro tracce, di cui un paio molto molto lunghe. Un quattro tracce che però spero sia un prodromo per un album più lungo per questo interessante progetto romano, ricordo, Holy Pieces. 21.57, una rossa, 87.9, prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30 circa. Ancora Italia, Senketsu no Nightclub del già citato Giovanni Leo Leonardi, che abbiamo apprezzato come Carnera, Siegfriedo, Sensut, eccetera. Qui in coppia siamo, soprattutto con Adriano Vincenti di Macelleria Mobili di Mezzanotte, ma abbiamo anche un sax suonato da Ian Ferguson. L'ideatrice, se vogliamo, in certi aspetti del progetto, che è Furaci Life, alla voce, all'immagine, al concetto stesso per l'appunto, e il basso di Antonino Stia. Questa è The Noisy Requiem e poi la conclusiva Sanji.